Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Quindicesima puntata. Allora che si fa, eh? C'ero io, il vostro umile narratore, e i miei tre Soma, cioè Len, Rick e Toro. Toro, chiamato Toro per via del grosso collo tamagno e della ciangotta altisuono tipo qualche tamagno toro che mugghiasse Stavamo al Corova Milk Bar a rovellarci il cardine su come passare la serata. Una sera buia, fredda, bastarda d'inverno, ma asciutta. Tutto intorno c'erano dei martini partiti con latte corretto con velluce, tesintemesc e drenacrom e altre trucche che ti portavano lontano, lontano, lontano da questo malvagio mondo reale, finché finivi in orbita all'occhiare zio e tutti gli angeli e i santi nella tua saboga sinistra, con le luci che ti scoppiavano dappertutto dentro il planetario. Quello che si glutava a noi era il vecchio mommo coi coltelli dentro, come si diceva, per diventare più svicci e pronti per un po' di porco 19. Ma questo ve l'ho già raccontato. Eravamo vestiti all'ultimo grido, che in quei giorni era un paio di queste braghe molto larghe e una specie di blusotto nero di pelle lucida sopra una camicia a collo aperto con una sciarpa o simile infilata dentro. E in quei giorni era l'ultimo grido anche usare la vecchia lisca sul planetario, di modo che gran parte del planetario era calvo e i capelli li portavamo solo sui lati. Ma le vecchie patte erano sempre le stesse. Dentro dei gran tamagni stivali cinebrivido per sgnaccare le biffe a forza di calcioni. Io ero il più vecchio dei quattro e loro mi consideravano tipo il loro capo. Ma a volte avevo il sospetto che Toro covasse nel planetario l'idea di assumere il comando, per via delle sue dimensioni e di quella sua ciangotta altisuono che gli usciva fuori come un muggito quando lui era sul sentiero di guerra. Ma tutte le idee ce l'aveva il vostro umile, o fratelli. E poi c'era questa trucca che io ero stato famoso e avevo avuto foto e articoli e tutta quella sguana sulle gazzette. E avevo anche un lavoro di gran lunga migliore di quello degli altri, dato che stavo nel ramo musica agli archivi nazionali Grammodisc e che a fine settimana avevo le gaioffe piene cinebrivido di Bella Maria e un mucchio di bei dischi gratis per Messolicello. Quella sera al Corova c'era una discreta folla di martini e quaglie e mammole e malcichi che gufavano e glutavano e attraverso tutto lo sprolare e il barbuglio degli orbitanti con gorgona fallaceto e il verme spruzza a cule i massacraballe e tutta quella sguana, si poteva snicchiare un pop disco sullo stereo con Ned Akimoto che cantava Quel giorno, yeah, quel giorno. Al banco c'erano tre mammole tappate all'estremo grido della moda moschetta, e cioè lunghi capelli spettinati tinti in bianco e tuberi falsi che sporgevano in fuori almeno mezzo metro e minigonne strettissime con un mucchio di bianco spumoso sotto. E Toro continuava a dire «Ehi, potremmo farcele, tre di noi, tanto al vecchio Len non interessa, lasciamolo solo col suo dio». E Len continuava a dire «Ah, Berte, dove sta lo spirito del tutti per uno e uno per tutti, ragazzo?» A un tratto io mi sentii molto, molto stanco e allo stesso tempo tutto formicolante d'energia e dissi «Via, via, via, via, via!» «Via dove?» disse Rick, che aveva una biffa tipo rospo. «Oh, solo all'occhiare quel che succede nel vasto mondo!» dissi. Ma non so come, fratelli, ero molto annoiato e un piccolo poco disperato, come mi capitava spesso in quei giorni. Così mi voltai verso il martino seduto accanto a me sul divanone di peluche che correva tutto intorno al sosto, un martino cioè che stava tavanando sotto l'effetto, e lo presi guizzo guizzo a pugni nella pancia. Ac, ac, ac. Ma quello non se ne accorse nemmeno, fratelli, e continuò col suo «carro, carro di virtù, in quali code si cela il papavero vero?» Così scattammo fuori nella grande cupa d'inverno. Camminammo giù per Margarita Boulevard, e da quella parte non c'erano pattuglie di cerini, Così quando incontrammo un bigio martino che veniva da un chiosco dove aveva accattato una gazzetta, io dissi a Toro: «Va bene, ragazzo Toro, agir tu puoi, se così ti garba». In quei giorni mi limitavo sempre a dare ordini e a starmene da parte, a locchiare, mentre venivano eseguiti. Così Toro lo crocchiò per benino, ar, ar, ar, e gli altri due lo trappettarono, e quando fu per terra lo presero a calci, gufando, e poi lo lasciarono che strisciava verso casa sua, tipo guaiolante. Toro disse: «Che ne dici di una bella slurpata di qualcosa, tanto per riscaldarci, oh Alex?» Perché non eravamo molto lontani dal Duke of New York. Gli altri due fecero sì, sì, sì, ma locchiavano me per vedere se andava bene. Feci di sì anch'io e così ci pistonammo. Dentro al calduccio c'erano queste bigie, quaglie o babusche che forse vi ricordate, e tutte cominciarono con loro: «Sera ragazzi, Dio vi benedica ragazzi, siete i migliori ragazzi del mondo, siete», aspettando che noi si dicesse: «Allora cosa prendete ragazze?» Toro suonò il chiamino e arrivò il cameriere asciugandosi le granfie nel grembiule untuoso. «Trucciolo sul tavolo, miei soma», disse Toro, tirando fuori il suo mucchietto di sonanti e tintinnanti denghi. «Scozzesi per noi e scozzesi per le vecchie babusche, eh?» E allora io dissi: «Oh, al diavolo, che se lo comprano da sé». Non capivo perché, ma in quegli ultimi giorni ero diventato piuttosto avaro. Mi era venuto il desiderio tipo di tenermi tutta la mia bella Maria per me, di farmi un gruzzoletto e tenermelo da parte per chissà quale scopo. Toro disse: «Che capita, bimbo? Che succede al vecchio Alex?» «Oh, al diavolo», dissi, «non lo so, non lo so. Il fatto è che non mi garba buttar via il trucciolo che mi son guadagnato, ecco tutto». «Guadagnato?» disse Rick. «Guadagnato? Mica c'è bisogno di guadagnarlo, vecchio soma, come tu ben sai. Basta prenderlo, no? Prenderlo!» E fece una gran gufata altisuono, e io l'occhiai che uno zugo o due non erano cinebrivido per niente. «Ah», dissi, «ci devo pensare». Ma locchiando queste babusche, tutte ansiose di glutare gratis un po' di alc, alzai le mestole e cacciai il mio trucciolo dalla gaioffa, monete e biglietti mescolati insieme, e plop, lo sbattei tutto sul tavolo. «Scozzese per tutti, va bene?» disse il cameriere. Ma, non so perché, io dissi: «No, per me è una birra piccola». Len disse: «Questo non mi garba mica!» E mi posò una granfia sul planetario, come per dire che dovevo aver la febbre, ma io gli ringhiai tipo cane di piantarla e al lampo. Va bene, vecchio soma», disse. «Deh, segui il tuo desio». Ma Toro stava locchiando a truglio spalancato qualcosa che mi era uscito dalla gaioffa insieme alla bella Maria. Disse: «Bene, bene, bene, chi l'avrebbe detto?» «Dammela subito», ringhiai e l'acchiappai guizzo. Non riuscivo a spiegarmi perché fosse capitata lì, fratelli, ma era una foto che avevo ritagliato dalla vecchia gazzetta ed era la foto di un bambino. Un bambino che gorgogliava gu gu gu col mommo che gli colava dal truglio, tipo, e guardava in su gufando a tutti quanti, ed era tutto spalandrato e con la pelle che faceva tante piegoline, tipo, dato che era un bambino molto grasso. Allora ci fu un piccolo poco di lotta e di «au, au, au» per riprendermi questo pezzettino di carta. Così dovetti ringhiare di nuovo e poi presi la foto e la strappai in tanti pezzettini piccini piccioli e li lasciai cadere per terra tipo neve. A quel punto arrivò il whisky e le bigie babusche dissero: «Alla vostra salute, ragazzi! Dio vi benedica, ragazzi! I migliori ragazzi del mondo siete!» quel genere di sguanate. E una di loro, che era tutta una ruga e nemmeno uno zugo nel vecchio truglio rinsecchito, disse: «Non strappare il denaro, figliolo. Se tu non lo vuoi, dallo a chi ne ha bisogno», il che era molto audace e sfacciato da parte sua. Ma Rick disse: «Danaro non era, o babusca. Era la foto di un caro, dolce e tenero piccolo bebè». Io dissi: «Mi sono proprio un po' scocciato, se lo volete sapere. Siete voi, bebè, tutti quanti. Ghignate, sbeffate, tutto quel che sapete fare è dar tamagni festoni alla gente che non ve li può restituire». Toro disse: «Ma come? Abbiamo sempre creduto che fossi tu il re, il maestro di questo genere di trucche. Tu non ti senti mica bene, vecchio soma». Io locchiai quel bicchiere di birra bavosa che stava sul tavolo e mi sentii tutto rivoltare dentro, così feci «Ah!» e rovesciai tutta quella sguana schiumosa sul pavimento. Una delle vecchie quaglie disse «Chi spreca pecca!» Io dissi «Sentite, Soma, non so perché, ma stasera non sono in vena. Non me lo spiego mai così. Stasera fatevi tutto da soli e lasciatemi fuori. Domani ci troviamo alla stessa ora, stesso posto, e spero di sentirmi più in forma». «Oh», disse Toro, «quanto mi dispiace». Ma si locchiava tipo una luce nei suoi fari, perché almeno per quella cupa avrebbe preso il comando. Il potere, tutti vogliono il potere. «Possiamo rimandare a domani quello che si aveva in mente», disse Toro, «e cioè quello sgaraffo al negozio di Gagarin Street. Lì c'è roba flipposa e cinebrivido, Soma Alex». «No», dissi, «non rimandate nulla. Fate la trucca stile vostro. Ora», dissi, «io pistono via». E mi alzai dalla sedia. «E dove mai?» domandò Rick. «Non lo so», dissi. «A stare per conto mio era accapezzarmi un pochetto». Si locchiava che le vecchie babusche erano tutte perplesse a vedermi andar via così, tipo imbronciato, e non più il malcichino sviccio e gufante che voi conoscete. Ma io dissi «all'inferno, all'inferno!» e scattai fuori per la strada tutto solicello. Era buio e si stava alzando un vento tagliente come uno sgarzo e c'era pochissima grega in giro. C'erano queste autopattuglie piene di rozzi brutali che andavano su e giù, e a qualche angolo si locchiava un paio di giovanissimi cerini che battevano le patte in quel freddo bagascio e soffiavano fuori un fiato fumoso nell'aria invernale, fratelli. Immagino che ormai la vecchia ultraviolenza e gli sgaraffi fossero in ribasso, dato che i rozzi erano così brutali con chi gli capitava a tiro, anche se tra moschetti e cerini c'era una specie di guerra, e spesso erano i cerini più guizzi con lo sgarzo, la lisca, il bastone e anche la pistola. Ma in quei giorni il mio problema era il fatto che non mi importava nulla di nulla. Era come se qualcosa di molle mi fosse entrato dentro e non riuscivo a azzeccare il perché. Non sapevo quello che volevo. Perfino la musica che mi piaceva snicchiare nella mia migna tana era un tipo di musica che prima mi avrebbe fatto gufare, fratelli. Più che altro snicchiavo delle migne canzoni tipo romantico, quelle che si chiamano leader, solo una ciangotta e un piano. Tutt'altra cosa dalle grandi tamagne orchestre che mi piacevano una volta, con me sdraiato sul letto tra violini, tamburi e tromboni. Qualcosa mi stava accadendo dentro e mi chiedevo se era tipo qualche malattia o se forse stavo per diventare scardinato sul serio, dato che mi avevano tanto pasticciato il planetario. Così, pensando a queste cose, col planetario chino e le granfie ficcate nelle gaioffe, camminavo per la città, fratelli. E alla fine cominciai a sentirmi molto stanco e anche ad aver bisogno di una bella tamagna ciotta di cià al latte. Pensando a questo cià, ebbi a un tratto tipo una visione di me che stavo seduto in una poltrona, accanto a un tamagno caminetto glutando questo cià. E quello che era buffo e molto molto strano era il fatto che sembravo un martino molto bigio, sui 70 circa, perché potevo locchiare il criname che era diventato molto bianco. E avevo pure i baffi, e anche questi erano bianchi. Così locchiai me stesso diventato un vecchio seduto accanto al fuoco, e poi questa visione svanì. Era tutto molto strano. Arrivai in uno di questi sosti dove si va a glutare tè e caffè, fratelli, e attraverso la grande vetrina locchiai che era pieno di grega comune, tipo incolore, con queste biffe pazienti e prive di espressione. Martini e semprocchie che non avrebbero fatto male a nessuno e stavano seduti lì a sprolare tranquilli a glutare i loro innocui cià. Pistonai dentro e andai al banco per ordinare un bel cià caldo con tanto mommo. Poi pistonai a un tavolo e mi sedetti a slurpare. A questo tavolo c'era una giovane coppia, un martino e una quaglia che fumavano cancerose col filtro e glutavano, sprolando e gufando molto piano tra loro. Ma io non li guardai nemmeno e continuai a lappare tipo a sognare, chiedendomi ancora cosa c'era in me che stava cambiando e cosa mi sarebbe capitato. Ma poi locchiai che questa quaglia seduta al tavolo con questo martino era proprio cinebrivido. Non il genere che vorresti subito sbattere giù e fargli il vecchio va e vieni, ma con delle macerie e una biffa cinebrivido e un truglio sorridente e un criname biondo biondo e quel genere di sguanate. E poi il martino che stava con lei e che aveva un cappello sul planetario e la bifa voltata si girò a un tratto per locchiare il gran tamagno orologio sul muro di questo sosto E allora l'occhiai chi era, e lui l'occhiò chi ero io. Era Pete, uno dei miei tre soma dei giorni di Giorgi e Bamba e lui e me. Era Pete, che sembrava tanto più vecchio, anche se non poteva avere molto più di 19 anni, e aveva un po' di baffi e un comune completo da giorno e questo cappello. Io dissi, «Bene, bene, bene, soma, che capita? È tanto, tanto tempo che non ci lo chiamo». Lui disse, «Sei il piccolo Alex, vero?» «Proprio lui», dissi, «tanto, tanto, tanto tempo da quei giorni andati». E ora il povero Giorgio è diventato un sotterraneo e il vecchio Bamba è un brutale cerino. E qui sei tu e qui sono io. E quali novelle contarmi puoi, vecchio soma? Che buffo modo di parlare, disse questa quaglia ridacchiando. E questo è un vecchio amico, disse Pita alla quaglia. Si chiama Alex. Posso, mi disse, presentarti mia moglie? Il truglio mi si spalancò. Moglie? Dissi, trasecolato. Moglie, moglie, moglie. Oh no! «Non può essere. Giovane troppo tu sei per essere sposato. Impossibile, impossibile, vecchio soma!» Questa mammola, che era la moglie di Pete, impossibile, impossibile, ridacchiò di nuovo e disse a Pete, «Anche tu parlavi in questo modo?» «Beh», disse Pete tipo sorridendo, «ho quasi 20 anni, abbastanza vecchio per essere accalappiato, e ormai sono quasi 2 mesi. Tu eri molto giovane e molto precoce, ricordatelo!» «Beh», dissi sempre stupefatto, «a crederci ancora non riesco, vecchio soma. Pete sposato. Bene, bene, bene. Abbiamo un piccolo flat», disse Pete. «Io lavoro alla State Marine Insurance e per ora guadagno poco, ma le cose miglioreranno. E Georgina qui, com'è che si chiama?» dissi, col truglio sempre aperto come uno scardinato. La moglie, moglie, fratelli, ridacchiò di nuovo. «Georgina», disse Pete, «anche Georgina lavora, dattilografa. Ci arrangiamo, insomma». Non riuscivo a levargli i fari di dosso, fratelli. Era un martino maturo, tipo, con una ciangotta da poldo grande e tutto. «Deve venirci a trovare», disse Pete, una volta o l'altra. «Tu», disse, «sembri ancora molto giovane, nonostante tutte le tue terribili esperienze». «Sì, sì, sì, ho letto tutto quanto. Ma naturalmente sei ancora molto giovane». 18, dissi, appena compiuti. 18, eh? Disse Pete. Di già. Bene, bene, bene. Ora, disse, dobbiamo andare. E dette a questa sua Georgina uno sguardo tipo adorante e le strinse una granfia tra le sue e lei gli restituì uno di questi sguardi, oh fratelli. Sai, disse Pete voltandosi verso di me, andiamo a una festicciola da Greg. Greg? Dissi. «Oh, già», disse Pete, «tu non lo puoi conoscere. Greg venne dopo di te. Entrò con noi mentre tu eri via. Fa sempre delle riunioni, sai. Si beve un bicchiere di vino e si fanno dei giochi di società. Cose tranquille, sai. Innocue, se capisci quello che voglio dire». «Sì», dissi. «Innocue. Sì, sì, ho zeccato cinebrivido». E questa quaglia, Georgina, ridacchiò di nuovo delle mie mottate. E poi i due se ne pistonarono via i loro sguanosi giochi di società da questo Greg, chiunque fosse. Io rimasi tutto sollicello col mio cià al latte che ormai stava diventando freddo, a pensare e meditare. Forse era questo, pensavo. Forse stavo diventando troppo vecchio per quel genere di 6 giorni che stavo facendo, fratelli. Ormai avevo 18 anni compiuti. A 18 non sei più tanto giovani. A 18 anni Wolfgang Amadeus aveva scritto concerti e sinfonie e opere e oratori e tutta quella sguana, no, non sguana, musica celestiale. E poi c'era il vecchio Felix M. con la sua overture di Un sogno di una notte di mezza estate. E poi c'erano tutti gli altri. E c'era questo poeta francese messo in musica dal vecchio Benji Britt che aveva scritto tutte le sue poesie migliori all'età di 15 anni, oh fratelli miei. Arthur si chiamava di nome. Quindi a 18 anni non si era poi così giovani. Ma che dovevo fare? Camminando per le strade buie in quel freddo inverno bastardo, dopo aver pistonato fuori da questo sosto per il cià e caffè, continuavo a allocchiare delle specie di visioni, tipo queste vignette nella Gazzetta. C'era il vostro umile narratore Alex che tornava a casa dal lavoro e si metteva davanti a una buona cenetta calda. E c'era questa quaglia tutta sorrisi di benvenuto e saluti tipo amorosi. Ma lei non la vedevo affatto cinebrivido, fratelli, e non sapevo chi potesse essere. Ma ebbi l'idea improvvisa che se andavo nella stanza accanto a questa stanza dove c'era il caminetto e dove c'era il tavolo con la mia cena calda, avrei trovato quello che veramente volevo. E ora tutto si collegava, quella foto ritagliata dalla Gazzetta e questo incontro con Pete, perché nell'altra stanza c'era una culla con un bambino che gorgogliava «gu, gu, gu». «Sì, sì, sì, fratelli, era mio figlio». E ora sentivo questo gran tamagno vuoto dentro le macerie ed ero molto sorpreso. Sapevo quello che mi accadeva, oh fratelli miei. Io stavo tipo maturando. Sì, sì, sì, proprio così. La giovinezza deve andarsene, oh sì. Ma la giovinezza è un po' come essere un animale. No, non proprio come un animale, ma come uno di quei migni giocattoli che vendono per le strade, tipo dei piccoli martini fatti di latta e con una molla dentro e una chiavetta fuori, e tu lo carichi, trrr, trrr, trrr, e quello pistona via, tipo camminando, oh fratelli miei. Ma cammina in linea retta e va a sbattere contro le cose, sbam, e non può farne a meno. Essere giovani è come essere una di queste migne macchinette. Mio figlio. Mio figlio. Avrei spiegato tutto questo a mio figlio quando fosse stato abbastanza bigio da capire. Ma d'altra parte sapevo che non avrebbe capito, o non avrebbe voluto capire, e avrebbe fatto tutte le trucche che avevo fatto io. Sì, forse avrebbe perfino ammazzato qualche povera pulcella bigia circondata da rattoli e rattole miagolanti, e io non sarei stato capace di fermarlo. Né lui sarebbe stato capace di fermare il figlio suo, fratelli. E sarebbe andata avanti così fino alla fine del mondo, gira e rigira, come un tamagno martino gigantesco tipo zio in persona, per gentile concessione del Corova Milk Bar, che girava e rigirava tra le granfie gigantesche una lezzosa arancia saloppa. Ma prima di tutto, fratelli, c'era questa trucca di trovare qualche mammola che volesse fare da madre a questo figlio. Avrei dovuto cominciare a cercare da domani, pensavo. Era tipo aver qualcosa di nuovo da fare. Era qualcosa in cui dovevo mettermi subito. Un nuovo capitolo che cominciava. Allora ecco che si fa, fratelli, ora che sono arrivato alla fine di questa storia. Siete stati dappertutto col vostro piccolo soma Alex. Avete sofferto con lui e avete locchiato qualcuno dei più lezzosi bugaroni che il vecchio zio abbia mai creato, tutti addosso al vostro vecchio soma Alex. E tutto per via che ero giovane. Ma ora che sto finendo questa storia, fratelli, non sono giovane. Non più. Oh no. Alex tipo maturando sta, oh sì. Ma dove pistono adesso, fratelli miei, solo sulicello? Voi non ci potete venire. Il domani è tutto tipo fiori profumati. E la lezzosa terra continuerà a girare con le stelle con la vecchia luna lassù, e col vostro vecchio soma Alex tutto solicello che si cerca tipo una compagna. E tutta quella sguana. Un terribile mondo lezzoso e bugarone per davvero, oh fratelli miei. E così, adieu dal vostro piccolo soma. E a tutti gli altri personaggi di questa storia, profondi sguerzi di musica labiale. E possono baciarmi le bacche. Ma voi, oh fratelli miei, ricordatevi qualche volta di me, che fu il piccolo Alex vostro. Amen. E tutta quella sguana.